Mi equipaggio di coraggio e di fioretti, manco fosse il primo maggio. Ragiono su da farsi e medito i prossimi passi, al come migliorare senza conoscerne il metodo. Mi riprometto che sarò degno di merito, che studierò, che passerò l'anno senza alcun debito, che inizierò la dieta, che arriverò alla meta, che mi impegnerò al massimo in tutto quello a cui mi dedico. Martedì e laccio le scarpe, rimango un po' così, perché lunedì sono inciampato, ma si riparte, sì. Da oggi giuro che si fa sul serio, vero? Sì, perché mica è detto che ho del tutto perso il treno. Mercoledì mi accorgo che non sono Ercole, di certo più debole, ma certo non voglio cedere. Se bevo le mie colpe so che poi sputerò cenere. In tre giorni non ho avuto un risultato notevole, perché ogni lunedì è sempre la stessa trama, tipo ogni lunedì non mi aspetto novità, ma so che ogni lunedì mi ritroverò in pigiama sul mio letto mentre aspetto che finisca la giornata, perché ogni lunedì sono attimi di gloria, tipo ogni lunedì è sempre la stessa storia. So che ogni lunedì infine morirò di noia e di tutto ciò che ho detto poi mi passerà la voglia. Giovedì vorrei trovarmi altrove, oltretutto prove, questo non fa altro che aumentare il mio malumore. Oggi mi sento giù, voglio starmene al riposo, guardo il meteo alla TV, mi dice che è nuvoloso. Venerdì proseguo allo stesso modo, immerso nello stress, a malapena ancora ci nuoto. Mi sento vuoto, non ho tenuto fede al mio vuoto, di inizio settimana sto sotto vuoto, mi manca l'aria. Sabato so già che stasera sarò talmente umido, fradicio, che non ricorderò più dove abito. Oggi sarò apatico, lascerò scegliere agli altri da farsi in modo strettamente democratico. Domenica sveglio a mezzogiorno, devo subirmi la predica sull'ora in cui ritorno la notte. Certe volte mi rendo conto che sbaglio, intanto qua domani è già lunedì, ma ormai chi cazzo se ne fotte. Ogni lunedì è sempre la stessa trama, tipo ogni lunedì io mi aspetto novità, ma so che ogni lunedì mi ritroverò in pigiama sul mio letto mentre aspetto che finisca la giornata, perché ogni lunedì sono attimi di gloria, tipo ogni lunedì è sempre la stessa storia. So che ogni lunedì infine morirò di noia e di tutto ciò che ho detto poi mi passerà la voglia. Oh, ma che cazzo? Oh, ma che giorno è oggi? Lunedì. Cazzo.